E torniamo in diretta, come annunciato, andiamo a Napoli. Pronto, ci senti? Sì, ciao, buongiorno. Ciao, siamo in diretta con uno degli occupanti del nuovo spazio, si chiama 081. Se intanto ci dici per cosa sta Zero. Allora, Zero sta un po' per tutto quello che siamo oggi, cioè da dove partiamo, generazione Zero. Zero diritti, zero garanzie. Pronto? Siamo quelli là che eravamo a Roma il 14 dicembre, siamo quelli che siamo stati nell'università e per le città in questi giorni, e Zero oggi anche quello che noi stiamo chiamando una zona di esperienze ribelli. Partiamo da questo, ci siamo riappropriati di uno spazio abbandonato dell'università, la storica mensa dell'Orientale, e da qui stiamo provando a costruire un percorso nuovo di appropriazione, un percorso politico nuovo in città, mettendo al centro un po' il nostro bisogno di spazi, di reddito, di diritti, diciamo. E poi abbiamo l'81 vicino, che è il nostro marchio di fabbrica, cioè la nostra condizione, il nostro prefisso napoletano. Questo prefisso in questo spazio ci vuol dire che noi da Napoli, cioè, non ce ne andiamo. È una delle ragioni della nostra rabbia di questi mesi, cioè quindi provare questo ricatto dell'emigrazione forzata, che oggi nelle condizioni in cui versiamo in questa città, senza welfare, senza diritti, distrutti dalle discariche e dalla questione rifiuti, non ci lascia grosse alternative che quelle della fuga. Quindi laboratorio 081 è la fotografia di una condizione generale di una generazione, ma anche di una condizione particolare in qualche modo. Sì, esatto. È quella che vivete a Napoli. Le due cose che per noi vanno assolutamente insieme. L'abbiamo vissuto in questi mesi, cioè non riusciamo a vivere in maniera distaccata la nostra condizione di generazione, la nostra condizione di sud, di Napoli e di meridione. Sì, e un'altra cosa ti volevo chiedere, perché da quello che ho capito in qualche modo la composizione di questo spazio, e anche per la vicinanza appunto a uno spazio all'università, ma anche l'idea di occupare uno spazio dell'Orientale, che comunque gli occupanti in qualche modo vengono fuori anche dalle esperienze delle scorse settimane, degli scorsi mesi, ma dal 2008, dall'onda di movimento dentro le facoltà di Napoli. E perché l'esigenza di uno spazio fisico appunto come questo laboratorio? Allora, la cosa è chiara, cioè noi siamo quelli là, cioè siamo proprio quelli di questi mesi, come siamo quelli di 2 anni fa, nel senso concettuale. Evidentemente c'è chi ha vissuto entrambi i movimenti, c'è anche chi oggi ha vissuto per la prima volta il movimento, ma noi sentiamo assolutamente la continuità fra il percorso iniziato 2 anni fa e quello di oggi. Siamo studenti medi, universitari, ma siamo anche abitanti del quartiere, un comitato di quartiere, cioè il ragionamento va insieme e prova a mettere oggi a superare un meccanismo, cioè un'ennesima botta, che sarà quella dell'approvazione della riforma Gelmini-Senato. A noi ci fa sentire, cioè ci ha fatto ragionare sul fatto che obiettivamente con quell'ennesimo passaggio si è sancito un altro momento di esclusione definitiva di questa generazione che richiede spazi di esistenza e che chiede e che pretende di essere protagonista della propria esistenza. E quindi ripartiamo da un posto abbandonato per incominciare a costruire un percorso nostro, cioè ci avete rotto il cazzo, adesso cominciamo ad autogestirci noi partendo dai nostri bisogni. E questa è una storica mensa, quindi una delle idee è proprio quella di incominciare a far rifunzionalizzare questa vecchia mensa, sperimentando anche forme di autoreddito. In questo sta un po', no, il ragionamento, il superamento del conflitto vissuto fino ad oggi. Crediamo che la prosecuzione naturale sia proprio questa oggi, partire mettendo al centro i nostri bisogni in un meccanismo che ci ha esclusi completamente, e possiamo farlo solo conquistando spazi come questo. Ci sono tantissimi spazi del centro storico di Napoli che sono abbandonati, molti sono delle università, questo un po', no, sancisce anche la cesura che c'è tra università e territorio, dove sia nell'università sia nel territorio attorno c'è bisogno di spazi, ma c'è anche un bisogno di welfare, di di diritti incredibile, eppure tanti spazi sono voluti abbandonati. Sì, tra l'altro spazio università, ad esempio a Roma, insegna bene come le università riescano, tutti qua, sia la Sapienza come Tor Vergata, sia Roma 3 a Roma, riescono a vendere grossi pezzi di patrimonio pubblico dell'università, oppure a farci progetti eminentemente speculativi per fare cassa, visti i tagli. E immagino che il destino di questa mensa da qualche anno sarebbe stato esattamente questo: togliere un servizio e fare cassa, per fare cassa per l'Ateneo. Chiusa 5-6 anni fa, in realtà per una, ufficialmente per un problema di strutturale, cioè era pericolante, avevano fatto dei lavori e così via. In realtà questi lavori non si sono mai realizzati, cioè questo è stato completamente abbandonato in questi 5 anni, no? E è evidente come la scusa anche banale con la quale questi ti presentano dei processi che invece sono piuttosto seri, quali quello dell'esternalizzazione dei servizi all'interno dell'università, ci porti oggi a ragionare sul fatto che se loro continuano a non volerlo aprire, noi ce l'abbiamo noi, non possiamo continuare a vivere nella speranza che loro ci ridiano servizi, quando questo mi sembra abbastanza chiaramente un processo piuttosto complessivo che viaggia su uno spazio che non è solo quello metropolitano, ma è uno spazio europeo di esternalizzazione dei servizi nell'università. Quindi è partendo da questo lato che noi diciamo basta, adesso ci siamo noi, ci mettiamo al centro. Ok, io ti ringrazio, facciamo i nostri auguri dalle frequenze di questa radio alla nascita di 081, e qualsiasi cosa, insomma, ci andiamo a risentire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, per vedere come andrà avanti questa battaglia. Grazie a tutti. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao.